amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a uno dei miei uomini. Sì, perché spegne 79 candeline. Earl the Pearl Morrow, the Black Jesus. Buongiorno a tutti. E la palla 2 è stata alzata dal nostro Paolo Onofri, oggi speriamo di non far confusione tra Paoli e Pietro, nomi ecumenici quanto mai importanti, ma amiche e amici sportivi e non sportivi, inizia la puntata odierna imprevedibile. Gli auguri a Earl the Pearl Morrow, grandissimo giocatore certamente, non un gigante, ma pensate un Paolo Zanardi alto 2,5 m. Quante volte ci hai pensato? Un talento come te, quante volte l'ho sognato? Quante volte l'hai sognato? Vabbè, qualche centimetro in più, mannaggia, vabbè. Quindi... ma non solo lì. Questo... sai che oggi è pericolosissimo. Freni, ma io per quel discorso lì sono il testimonial, quindi è ufficiale. È vero, questa leggenda della legge della L è vera. Ah, è vera, è vera. Vado a casa più sereno. Pietro, ben arrivato, buongiorno. Insomma, avremo modo di conversazione quest'oggi anche da remoto con degli ospiti che sono stati convocati. Che grande piacere incontrare un atleta 2,13 m che ai tempi della Fortitudo Juniores, insomma, abbiamo scambiato più volte il parquet. Detto questo, iniziamo, la nostra playlist è già pronta, dedicata a tutta l'alta statura. Beh, a proposito di alta statura, tu hai fatto una ricerca molto interessante sul cambiamento di questo aspetto nel corso degli anni. Beh, allora Willy, dovete sapere che chiaramente il tema di oggi è stato stimolato dall'arrivo nell'NBA di Wembanyama, che è un giocatore di 2,24 m che in questo momento, se tu lo vedi muoversi in mezzo al campo, fa impressione, perché si muove veramente, come si suole dire, come un giocatore di 1,80 m. Da lì sono partito a pensare come potrà essere il basket in futuro, e la statistica ci dice che nel 1951 mediamente i giocatori dell'NBA erano 6,3 6,4, quindi oggi traduciamo 1,88 fino a 1,95. Esatto. Oggi nel 2022 l'altezza si è alzata mediamente a 6,6 6,7, quindi 2 metri 2,2 2 metri e 3. Io penso che in generale la statura, indipendentemente dal parquet, dalla pallacanestro, si sia alzata, Paolo? Decisamente, ma la cosa interessante è che non va di pari passo in proporzione il peso, ovvero il peso dei giocatori di basket è un po' aumentato rispetto agli anni 50, ma non così tanto come l'altezza. Ho capito, è un aspetto di gigantismo in statura, non tanto in dimensione. O di giandismo, totale. Se oggi lo vogliamo tradurre in bolognese. Attenzione al body shaming, quest'oggi, attenzione! Sì, perché se uno è alto puoi prenderlo in giro liberamente. Questo non l'ho mai, insomma, non sono mai riuscito a mandarlo. Tu non hai giù. Idea di cosa si aspetta il nostro ospite adesso che arriverà. Perché, insomma, i luoghi comuni sui giandi sono... Sì. Mi potresti venire a casa ad allacciare la lampadina. Svita la lampadina nei lampioni, esatto. E via discorrendo. Sai che comunque lui è stato autore di body shaming nei miei confronti. Ah! Allora, svelo e poi sentiremo il nostro Eugenio Capone. Allora, lui juniores, io ancora cadetti, spogliatoio diverso, passa dallo spogliatoio, mi sto cambiando, guarda, fa: Maddo, ma quanto sei secco! Ma quanto sei secco! Poi detto da lui. Poi detto da lui, che non era esattamente. Però era rimasto impressionato dal fatto, insomma, del mio aspetto lungo ed esile. Okay. Molto esile. Un po' come se io incontrassi Batantuono e gli dicessi: ma ti vedo un po' sovrappeso. Esattamente. Aspetta un attimo, vorrei che mi vedesse adesso. Se mi vedesse adesso, magari cambia idea. Dici che possiamo già andare in conversazione con. È lì fremente. Io metto De Sì, il mare, dei Morciba, sai perché? Perché è il classico discorso: io non sono un grande nuotatore e mi spingo un po' al largo e mi chiedono: si tocca? Io dico sì, sì. Looking to the sea, crowds lots of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. Alle 8 e 12 minuti con il Mood Groove odierno ad alta quota, il primo ospite che abbiamo convocato grazie a Paolo Zanardi, Juniores Yoga Bologna. Io mi sto cambiando, lui passa davanti allo spogliatoio, mi guarda e dice: oh, ma quanto sei secco! E ha chiamato tutti i compagni, Caramori, Paolo Rossi, a vedere questo mingherlino che ero io. Ecco, intanto ti do il buongiorno, Eugenio, bentrovato. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, ti ricordi di questo episodio? Probabilmente no, ma me lo ricordo io. Al tempo lui parlava romano perché è di Roma, adesso lui è toscano. Ah, ok. Hai capito? C'è stata una trasformazione. Anche io non sono più così secco, sai Eugenio, purtroppo. Sì. No, purtroppo no. Ahimè. Anzi, ricordo con nostalgia quei tempi che ormai sono molto, molto lontani. Allora, oggi la puntata del Mood Groove porta, come ho già detto più volte, un'alta statura. Da dove iniziamo questo? Ma io inizierei, perché non è proprio solo dedicata al basket. Cioè, si parte anche proprio da cosa vuol dire vantaggi e svantaggi nella vita di essere, adesso noi parliamo dei 2,20, ma nel caso di Eugenio non è che ci siamo molto lontano. 2,13. Quindi Eugenio, la prima domanda è: avrai vissuto mille aneddoti in positivo e a volte anche con le consuete rotture di scatole. I vantaggi e svantaggi di una vita da 213 centimetri? Ma io, se Dio vuole, li ho sempre sfruttati a mio vantaggio. Devo dire che non è semplice nella nostra, diciamo, cultura andare a giro con queste altezze, soprattutto quando sei giovane ti senti un po' in difficoltà perché la gente ha tutti gli occhi puntati su di te. Però se uno lo prende con col giusto modo, col carattere, diciamo, sorridente, come ho sempre avuto io, di goliardia, lo sfrutti a tuo vantaggio, sia, e devo dire, sia nella vita che nel lavoro, e soprattutto con le ragazze, perché era un modo per bagagliarle. Guarda, abbastanza simile, nonostante io non arrivi alla statura, sono 2,4, ecco, però è sempre stato un modo per rompere il ghiaccio, mettiamola così. Poi oltretutto, da quello che ho conosciuto di Eugenio, hai un carattere sempre molto sorridente, molto propositivo, e quindi aggiungiamo anche questa peculiarità particolare. A questo punto il gioco è fatto. A proposito, tornando sul parquet invece, ti ricordi il giocatore più alto che hai dovuto marcare? Ma il giocatore più alto, Tony Fuss, sì, e Angelo Reale. Ah, giocatori. Sì. Quanto è alto Angelo Reale? 2,14. No, 2,18. E Torino Fus dovrebbe essere 2,20 se non sbaglio. Sì, ha giocato con me, ha giocato a Bologna con me, lo conosco Tonino, l'abbiamo avuto anche ospite a sua volta, quindi oltretutto personaggio di un'umanità veramente eccezionale, una persona estremamente sensibile, colta, generoso. E infatti perché noi alti siamo buoni in fondo, ecco, il luogo comune della persona alta che è di cuore, dai, diciamolo, spezziamo una lancia in nostro favore, Eugenio. Non solo, ma tu devi sapere che Eugenio è lo schermidore più alto del mondo. Al mondo. Cioè, non, è vero, non, me lo della Bolognina, così, non della Bolognina, sì, non, o dei Parioli, no, cioè, no, non del quartiere Navile. Quindi è bella questa storia, ce la deve raccontare lui. Come nasce questa passione per lo scherma, che è stato divertente vederti anche sui social su questo? Ma perché Luca Magni è schermitore di professione, di Fioretto, caro amico qui a Pistoia, che lui ha vinto fra l'altro la medaglia di bronzo a squadre nel... ora diversi anni fa, saranno passati almeno 10 anni fa alle Olimpiadi, a fine carriera, quando io diciamo ero con le scarpette attaccate al chiodo, mi disse: ma dai Eugenio, siccome è alla scuola qui a Pistoia, lui e suo fratello Gabriele Magni, che è un avvocato molto in gamba e bravo anche nella scherma, mi disse: ma perché non viene a tirare di scherma con noi, è un modo per conoscere un nuovo sport. Io ero un po' restio perché non sapevo neanche dell'esistenza di tre armi, cioè lo vedevo in televisione con la Trillini, con insomma vari campioni, tifavo per l'Italia sempre, però non avevo idea. Ci andai, provai e trovai innanzitutto un ambiente come tutte le cose, un ambiente meraviglioso, un ambiente sano, di ragazzi in gamba, di persone insomma adulte, ma e anche ragazzini, ma cioè, molto piacevole, molto. E da lì ho iniziato e mi sono divertito. E siccome è un po' giocare al gatto col topo, perché è un po' così il gioco della scherma, permettetemi questa similitudine, andai, mi divertì talmente tanto che dissi no, però dopo pochi, diciamo un mese di allenamento, dissi io però ho bisogno, cioè, di giocare, sportivo professionale, sì, ho bisogno di misurarmi, cioè di avere un obiettivo. E lui propose di fare le qualificazioni normali, diciamo le qualificazioni che fanno, c'era ragazzini dai 16-17 anni in su. Beh, però seriamente, Eugenio, scusa se ti interrompo, cioè dal punto di vista puramente sportivo, essere così alto nello schermo dovrebbe essere un vantaggio, perché tu hai le leve molto lunghe, dovresti riuscire a colpire prima. Ma c'è più spazio per essere ferito, oddio, colpito. Bravo, sì, sì, è un vantaggio e uno svantaggio, perché ovviamente soprattutto all'inizio, quando non sei... diciamo capace, non è l'esperienza, la furbizia, l'astuzia dei giocatori navigati, naturalmente sei più esposto a essere colpito, perché io faccio spada e ho tutta la superficie del corpo dai piedi alla testa, e tu immagini quante volte mi hanno colpito ai piedi, perché ho messo tutto. Ma ti i giuro piccolini, che ti fai... lo stai, sono carogne i piccolini, te l'ho detto, e ti fa arrabbiare, che io volo. Però è stato molto bello, fra l'altro in questa occasione con la scherma, quando c'era la Bebe, che non era così famosa, la Bebe Vio, che saluto, che è una ragazza, una donna splendida, veramente un'energia incredibile, niente, chiese di tirare con me, perché seppe di questo gigante che tirava di scherma, e siccome lei aveva tirato tutti i campioni dopo la sua malattia e tutte dopo le sue amputazioni, e io con grande piacere e anche con un po' fra virgolette di vergogna, perché non, cioè, mi trovavo a difficoltà, perché io faccio spada e non fioretto, però ho preso lezioni di fioretto, e lo facemmo con all'evento di Willy, del nostro amico Willy, sì, dove c'erano tutte le disabilità, e feci questo incontro con lei. Mi ricordo ero emozionatissimo, perché naturalmente ci credo. Sì, però fu una cosa bellissima, sempre nel cuore, mi ha lasciato veramente un bellissimo ricordo della manifestazione, ma soprattutto di lei, con questa energia che si sentiva già all'epoca, che era giovanissima, se non sbaglio aveva 14 anni, 15 anni, e che veramente mi ha lasciato dentro un ricordo meraviglioso di questo sport. È uno sport che io consiglio soprattutto a ragazzi giovani, perché è molto educativo, ti dà proprio le regole di rispetto nei confronti dell'avversario, se perdi, se vince. È veramente uno sport che non conoscevo così da vicino, è veramente stato molto molto interessante provarlo a fare e divertirmi, e trovare naturalmente, poi sono andato in giro, ho fatto i master in giro per per l'Italia sono il primo anno, sono arrivato dodicesimo nella mia categoria, sicché ecco, è clamoroso tutto. Complimenti. Marco, su quanti? Su 12? No, su 13. Il solito Zanardi che deve rompere la poesia, ma del resto lo conosciamo. Allora, lungagnoni di tutto il mondo, unitevi, perché come vedete, allora, Dan Kinstelman è diventato un grande musicista, è un saxofonista veramente di fama mondiale nella ricerca, nel jazz e non solo. Beh, Eugenio Capone, lasciando il basket, ha iniziato una nuova attività nella scherma, 213 centimetri, quindi direi che lo possiamo tranquillamente aggiungere a questa playlist di atleti di statura e non solo, anche di grande umanità e grande generosità. Già ti sei alzato a quest'ora e hai dato disponibilità alla diretta, io ti ringrazio tantissimo. Sì, ma anche le idee. Fra l'altro voglio raccontare un aneddoto velocissimo. Nel 2011 ai campionati italiani di scherma master, naturalmente a Montecatini, ricevetti la telefonata dal povero Alberto Bucci, che non c'è più, e Ponzoni, che allenava la nazionale italiana master, e mi chiamava. Io avevo smesso di giocare, avevo smesso nel 2004, sì, che era 7 anni che avevo smesso, e ricevetti la telefonata proprio fra una gara e l'altra, dove sentì Alberto Bucci e disse: oh, come va? Mi chiama Alberto, mi chiamò per sentire se andava tutto bene, insomma, se mi allenava e quant'altro, perché mi voleva, aveva un problema con un giocatore, si era fatto male in nazionale, un lungo, e mi chiamò ad andare a fare i mondiali in Brasile. Sicché veni catapultato dalla scherma ai mondiali di basket in Brasile, che fra l'altro si vinsero, e tornai a giocare con un grande piacere e quant'altro, e si vinsero i mondiali, fra l'altro giocando tanto tempo, perché insomma mi trovò in forma e quant'altro, mi fece giocare tanto tempo, e questo fu per dire, non è collegato alla scherma. Esattamente. Ma Eugenio, è possibile che una volta io ti abbia visto anche all'interno di una Formula 1? Sì, perché ho fatto, sì, è verissimo, la Formula 2, che è come la Formula 1, però semplicemente motori meno potenti. Sì, è stato nel 2009, che ho fatto veramente da sponsor a un pilota e una macchina, cioè uno degli sponsor a un pilota e una macchina, tra l'altro un pilota che conosco, sardo, e il proprietario, che è un russo, un architetto russo insieme al suo team, fece da sponsor, perché nel momento in cui c'era la crisi, diciamo, a livello real estate in Italia, io investì su questa cosa per farmi conoscere all'estero, e feci girare, diciamo, tutti Estoril, tutti i vari. Ma scusa, i piedi circuiti, dove arrivavano nella Formula 1? Cioè in punta? No, non c'entravo. Andava fuori. Esatto. Mi ci hanno infilato in una, mi ci sono incastrato, ci dovevi avere una foto da qualche parte, però ero proprio incastrato. Però ecco, fu un'esperienza molto bella anche quella, perché è un ambiente completamente diverso dal nostro, dove gira tanti soldi, insomma, un ambiente un po' particolare, ma molto bello, l'ambiente certo. Motori è molto particolare. Ed è anche importante come lo si affronta, vista la tua predisposizione alla novità. Noi ti ringraziamo tantissimo per questa sintetica ma intensa pillola di partecipazione al Moved Groove. Adesso sei a Pistoia, tra l'altro hai giocato a Pistoia, mi pare, nell'ultima parte di carriera. Ho giocato 10 anni a Pistoia. Infatti. Sì, vivo qui a Pistoia e poi sono sempre in giro un po' per il mondo con le mie nuove attività che mi sono inventato durante il Covid, e vado in giro, spesso sono in Africa dove lavoro per la mia società di commodities e per aiutare soprattutto i bambini bisognosi, perché è un mio grande sogno quello di finire e continuare a, diciamo, la mia carriera umana, cercando di aiutare, di essere d'aiuto a persone che hanno tanto, veramente tanto, tanto bisogno. E noi ti auguriamo il meglio e una buona giornata con un grande abbraccio. Grazie Eugenio. Un abbraccio a tutti. Fantastico. Voi, grazie, è stato un grazie piacere essere con voi. A presto, ciao. Ciao, un bacio a tutti. But then again, she's right here with me, watching every place I go. Whoa, did you tell me it was my mood? Yes, it is. Say hello, Sunday, hello, road. Hello, Sunday, hello, road. Manager, we had just couldn't manage you. Some midnight man is right alone. And it's got me out here with my brother. That's the thing that 97 Gisco Tiron, il povero Gisco Tiron, musicista, cantautore, impegnato in tutto ciò che è un'attenzione politica e sociale, poeta, pianista e ovviamente grandissimo musicista nel soul e non solo, continua nella nostra playlist ad alta quota. Ricordo, lui sarebbe un 6 piedi e 6, un'ottima ala piccola, ecco. Allora, Paolo e Pietro, ovviamente diamo spazio anche agli ascoltatori, alle ascoltatrici. Complimenti ragazzi, di basket NBA di ieri, di oggi ne sapete poco, ma siete molto simpatici. Un abbraccio. Allora, se devo essere sincero, preferisco a me va bene, cioè, accetto la critica, bene, ma apprezzo ancora di più il complimento, sì. Grazie. Senti un po', ma non si sono firmati, se vi firmate veramente sarebbe una cosa fantastica. Codardi! No! Esatto, e poi avete paura. A me Wemby ricorda Willy. Oh! Oh! Oh. Willy più bello! Tanta roba! Sentito Pietro, grazie Pietro! E poi mette della bella musica! Metti via la collezione di violini, per favore! Ricordo Eugenio, che ringraziamo, anzi ringrazio in particolar modo Paolo Zanardi che ha attivato il contatto. Non vedevo Eugenio da non so quanto tempo, almeno sentirlo è già motivo di emozione e di ricordo. Tra l'altro Eugenio Capone è un 66, io un 69, quindi più grande chiaramente. Quando c'erano dei contatti si ha sempre, no, quel timore, quell'aspetto giustamente reverenziale che ci deve essere. Lui è sempre stato un atleta di categoria giovanili più grandi, però con i ragazzi più giovani estremamente così accogliente, scherzoso in maniera positiva, una carissima persona davvero. Quindi, ma soprattutto con una grandissima capacità di reinventarsi, nel senso che il carattere che ha lo porta a essere sempre molto positivo, guardare il lato positivo delle cose, il bicchiere mezzo pieno, e sarebbe stato anche il PR più alto del mondo perché è eccezionale. E ricordo che giocava in coppia con Paolino Rossi, 2-11, sì, che esatto, salutiamo tra esatto l'altro. Allora Pietro, hai sentito che paragone? Hai capito che atleta che ero io? Anzi, io dico che ero meglio di Wemby forse. Like a symbol of a change. Parlaci un po' di questo Wemby, tu che sei più giovane e informato sulla NBA attuale, Pietro. Allora, francese, classe 2004, di 2,24 per 95 kg. Infatti mi rilascio a quello che diceva Paolo Zanardi, molto interessante. Si cresce d'altezza ma non di peso, perché negli ultimi 15 anni in NBA, bene o male dall'arrivo di Durant, non necessariamente si fa mettere troppa massa muscolare a questi giocatori molto alti ma molto magri, per evitare di perderne per quel che riguarda agilità, tecnica o quant'altro. C'è l'esempio di Wembanyama, ma sempre un altro rookie NBA che c'è ora è Chet Holmgren degli Oklahoma City Thunder. Lui di 2,16-2,17, molto, molto esile, molto longilineo, circa 94-95 kg. Sempre di questa scuola di nuovi lunghi molto magri, cioè il primo Embiid arriva in NBA dal college, Embiid centro dei Philadelphia 76ers, che ora è un armadio enorme, ma quando arriva in NBA anche lui è molto magro. Porzingis, lettone, passato per i New York Knicks, ora in forza ai Celtics, passando per Dallas, anche lui arriva in NBA molto magro. C'è questa volontà di non caricare troppo di massa muscolare per più motivi. Un primo, a me viene in mente la questione del gioco, essendo la pallacanestro di oggi molto meno, almeno in NBA ovviamente, incentrata sul gioco spalle a canestro, hai meno necessità di avere quella massa, quelle spalle, certo, ottima analisi, che potevano servirti, certo, negli anni 90, e quindi metti palla per terra, è pieno di lunghi, si fa investimenti su questi lunghi che fondamentalmente sanno allora mettere la palla per terra, ma non sanno giocare per sparare canestro. Però si fa l'investimento sul tanto abbiamo questo tipo di gioco, si tira tanto da tre, si va in quella direzione, se poi si riesce a mettere un gioco decente e sparare a canestro tanto meglio. Porzingis per esempio, hai sentito il nostro juniores, esatto, come se la cava, Porzingis per esempio non ci è riuscito, infatti fa ridere perché è un 2-16-2-17 dei Boston Celtics, che un paio bravini sparare a canestro li hanno avuti, ma lui fa quel che può, certo, ed è una trasformazione che io critico, ma che allo stesso tempo probabilmente critico con ancora più intensità, perché io giocavo così. Mi fa veramente molto arrabbiare. Manu Dibango, questo atleta di cui abbiamo citato per me con il nome molto particolare, è africano di origine, no? Sì, sì, sì. E allora, ovviamente un immigrato francese di seconda generazione. Di origine africana. Sì, sì, sì. E quindi noi ci facciamo accompagnare alla pubblicità con Manu Dibango, dicalo, Salt Popcorn, e tra poco torniamo in diretta con il Mood Groove e avremo un ospite speciale, un coach. Dopo okay, parliamo di basket serio, anche di determinati aspetti intimi delle persone alte. Lui è Marvin Gaye, da Midnight Love, con Sexual Healing, questa terapia, questa cura che porta il più grande cantautore e compositore soul di realtà moderna, Marvin Gaye. Dovete sapere, oltre che essere più di 1,90, stiamo parlando di super lunghi, è anche un appassionato, era anche un appassionato di pallacanestro. Ho un video dove lui appunto si destreggia nei playground. Beh, mi sono confrontato con Adam Filippi, fa: devi sapere comunque che era tristo, mi ha detto, era tristo Marvin. Quindi non basta insomma essere dei grandi nella musica per... non vuol dire, e ovviamente tutto ciò ci porta poi a parlarne con un coach, un grande coach, Stefano Michelini, che è qua in diretta telefonica con noi. Buongiorno e grazie, Stefano. Buongiorno a tutti voi e grazie a voi. Allora, c'è grazie anche Paolo Zanardi, che è stato numero uno, grande coach, e quindi ciao Paolo, ciao. Buona giornata anche a te, piacere ritrovarti. Grazie. Allora, mille. Iniziamo con questo fuoco di fila di domande in relazione a atleti veramente di stature elevati. Ma essere così alti è un vantaggio o uno svantaggio, coach? Ma hai detto tu prima un'espressione dialettale, l'era tristo, l'era trest, no? Sì. Perché in bolognese, seppure che poi è un francesismo, perché poi noi certo. deriviamo tanto dalla triste, perché ti veniva in mente, riportato ai pivot alti della pallacanestro, magari un errore banale da sotto, no? Che dava tristezza a chi lo vedeva e soprattutto a lui. Cioè. Ma è per quello, no? Il tema tristo nasce da questo tema qui. Da questo sentimento che ti mette, ho capito. Allora, io avendone allenati tanti, e per me è sempre stato una gioia, perché poterli aiutare a realizzarsi, io li vedevo non esultare quasi mai dopo un canestro da sotto, perché era come se il canestro fosse un atto dovuto e un tributo alla propria altezza, no? Magari invece esaltarsi perché riuscivano a fare un tapping al volo oppure una schiacciata volante, perché allora quella era un'espressione di un livello un po' più alto, di una prodezza. Il vantaggio ovviamente c'è, negli anni questo vantaggio e il modo di sfruttarlo è cambiato, l'amore però che abbiamo noi per i grandi lunghi non cambierà mai, certo. Il mio personale almeno. Certo. Certo, senti coach, abbiamo detto prima all'inizio della trasmissione che in questi 70 anni l'altezza media dei giocatori dell'NBA si è alzata di 10 centimetri, se non qualcosa in più. Secondo te è pensabile che, non so, tra 30, 40, 50 anni le squadre siano composte da giocatori, non dico di 2,20 m, però comunque ampiamente sopra i 2,10 m, tutti giocatori altissimi, oppure invece ci sarà sempre spazio per noi nani? Ricorda sempre che qualsiasi cavallo pura sangue ha la sua capretta. È vero, quindi, bravo. E quindi servirà sempre il giocatore piccolo, rapido, veloce, ma è così, delle strategie di qualsiasi tipo di attività, compresa, ahimè, la guerra. Allora io dico, Wembanyama per esempio, no? Tu diresti oggi, com'è possibile leggere la prestazione di Wembanyama dove leggi che è un all around, può giocare dall'1 al 5 di 2,22 m, ok? Wembanyama sarà il giocatore, secondo me, che cambierà la visione della pallacanestro, quindi 5 no, ma 3 sopra i 2,10 m ci potranno stare in campo, sì. Sì, anche secondo me, confermo. Quale giocatore sopra i 220 centimetri ti ha più impressionato, sia nella carriera di allenatore ma anche di cronista, Stefano? Beh, io personalmente proprio non ho un dubbio, ho un amore sperticato, ho avuto l'onore e la fortuna di conoscerlo di persona, mi sono inginocchiato davanti a lui perché mi concedesse udienza e me l'ha conceduta. È Arvidas Sabonis. Ah, ok, certo, beh, un grandissimo, anche perché è un il po' principe del Baltico. Ragazzi, vi assicuro che se non avesse avuto questo malessere interiore che lo spingeva, ahimè, un po' a bere, diciamo la verità, certo. Cioè, quando era giovane aveva dei mezzi atletici, era, cioè, riguardiamoci la parte giovanile di Sabonis, perché non è credibile quello che lui faceva e quello che era in grado di fare. Certo. È stato uno dei precursori, tra l'altro, della pallacanestro come la vediamo adesso. Sì, io ricordo, vogliamo, che prima di lui, una volta, io lavoravo in negozio da Foot Locker, mi vidi arrivare in negozio Kachenko, che per entrare in negozio abbassò la testa. Io me lo trovai dietro perché vennero ad allenarsi in Virtus con l'armata rossa. Esatto. Io, sempre bimbetto di 10 anni, mi girai e mi trovai questo elemento e veramente, certo, mi feci immediatamente. Ma hai ragione, c'è una foto. Ragazzi, scusate se vi ho interrotto, certo, c'è una foto dove Sabonis di fianco a Tachengo sembra il fratello minore. Sì, senti coach, un'altra domanda è la seguente, si parla tanto, proprio in virtù dell'argomento che stiamo trattando, di quello che dicevi giustamente tu, di allargare il campo o addirittura in proiezione alzare i canestri. Che cosa ne pensi tu di questo aspetto? Ma l'esigenza di allargare il campo la si sente, anche perché l'arco dei tre punti fa sì che il gioco negli angoli venga quasi evitato per la paura di finire fuori campo col piede anteriore, quando un po' come alle botte, un po' come alle botte, esatto, come alle botte con le tre palestre delle botte. Allora di allargare in campo si sente ovviamente la necessità, ma sarà molto difficile riuscire, perlomeno in Italia quasi impossibile, adeguare le palestre. Nel mondo non lo so, tutto può cambiare. Allargare il campo e alzare di 10 centimetri i canestri potrebbe essere la possibilità del futuro, si ha ragione. Certo, noi ti ringraziamo tantissimo per questa conversazione, coach. Noi ci vediamo per un piatto di tortellini. Ma gli posso fare un'ultima domanda? Certo. Che mi ha scritto Paolo Bergonzoni. Ma certo, ma come no? Coach, il mitico Bego mi scrive in diretta: chiedi al Micolo perché non ci sono dei 210 di buoni in Italia oggi. Domanda scomoda dell'ultimo minuto, ma l'ambasciatore certo, non porta pena. Tu considera, la risposta è in un dato. La nazionale under 18 quest'estate aveva di pallacanestro un'altezza media di 1,93 m, quella di under 18 campione Europa di pallavolo 2 m. Ecco. Quindi negli anni, dai tempi eroici del reclutamento dei grandi, bisogna fare i nomi dei nostri grandi a Bologna che non dobbiamo dimenticare, Pilotti, Giardini, oddio, Bernardini, Ettore Zuccheri e tutti i grandi, in cui si andava e si prendevano tutti più alti all'uscita della scuola, oggi si fa sì che la pallavolo faccia un reclutamento pazzesco nelle scuole. Molti ragazzi di 1,90 m sono andati a giocare a calcio. La pallacanestro ha delle colpe, il mondo della pallacanestro, gravissime, per aver abbandonato ed essersi autocompiaciuta del suo ruolo senza costruire un progetto di alternativa negli ultimi 30 anni. E per chiudere, c'è anche il burnout, cioè l'abbandono. Vi dico, io ve lo dico perché se facendo parte della scuola centrale del CONI ho i numeri degli sport di squadra, l'abbandono dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni dello sport di squadra dopo il Covid è più che raddoppiato. Insomma, metti insieme tutti questi temi, scopri perché. Certo, e direi che guarda, hai chiuso, ce n'è un altro, perfettamente, sì, condivido. E ce n'è un altro ancora importantissimo. Faccio un esempio. Io presi tale Bob Cavallari, grande mio Bob, sì, al quale devo tanto, 2,8 m, 140 kg, con anni di lavoro certosino, passò dall'essere un corpo grezzo a giocare alla Virtus. Pensate un po'. E bene. Ferrara con la sua vendita realizzò una plusvalenza di 1,4 miliardi. Tra l'altro, oggi, ottimo giocatore Mancino, sì. Mancinone tirava anche da fuori, sì. Sì, molto, mamma, Bob è un grande. Allora il tema qual è? Che allora le società quindi si tenevano stretto il Michelini di turno che produceva col lavoro certosino le plusvalenze. Oggi che i giocatori sono liberi, ok, di andare di anno in anno, la società del giocatore è diventata il procuratore, cioè il procuratore che cerca di lavorare perché il giocatore migliori per poter avere ingaggi migliori, ma è una visione differente, capisci? Sì. Quindi si passa ad un modo diverso. Permettimi di chiuderti con questa chiosa. Una volta c'era economia e pallacanestro, avevi una lavatrice rotta, un frigorifero rotto, chiamavi qualcuno che ti aiutava a recuperarla. Nella pallacanestro eri battuto in difesa, chiamavi qualcuno che ti aiutava a recuperare. Oggi c'è basket e finanza, la lavatrice rotta la cambi, sei battuto in difesa, cambi. E la cosa più drammatica è che la lavatrice la cambi perché è diffuso il concetto spendi di più ad accomodarla che a comprare una nuova, che è un concetto che mi fa vomitare. Ed è lo stesso concetto, spendo di più a creare un giocatore, mi conviene prenderlo già fatto. Esatto. E questo appunto porta poi note conseguenze. Ce ne sarebbero da dire ad oltranza, ma il tempo è tiranno, come si suol dire, ma i contenuti sono veramente molto interessanti e non solo riguardanti la pallacanestro. Stefano, noi ti ringraziamo tantissimo e ti auguriamo buona giornata, però hai aperto un paragrafo che magari ci risentiamo per altri approfondimenti al Move to Groove. Grazie coach. Grazie, un piacere. Buona giornata a tutti. Grande coach, un abbraccio. Ciao, ciao. On a racetrack near Marseille, it all sound like a mystery. Things that you just don't understand. Lino scrive: Wemby ha le movenze che mi ricorda le giraffe, animali bellissimi che ho avuto la fortuna di ammirarli nei loro habitat. Tecnicamente nulla che non abbia già visto con Samson, anzi Ralph mi sembrava più forte anche a me, forse perché arrivò in NBA un paio di anni più grande. Come primo centro lungo e magro mi viene in mente Karim, ma lui un pochino spalle a canestro era capace, sì, giusto un pochino. In realtà credo che le montagne sotto canestro siano passate di moda col cambio del gioco, con gli isolamenti, pick and roll, del tiro da tre, per la musica molto groovy, riferimento assoluto. Grazie, un saluto anche a Paolo e super coach Michelini, vero coach. Sabonis era il mio preferito da quando lo vidi alle Olimpiadi di Seul e mi ricordai di quello che mi raccontò Jacopini dal ritorno dei campionati europei juniores. Posso immaginare, non lo vogliamo sapere. Dobbiamo salutarci, ragazzi. Pietro, ti invito a rimanere, anzi ti obbligo, sei precettato, adesso va di moda il precettare. A breve avremo rassegna stampa per quanto riguarda l'approfondimento nelle notizie dei quotidiani odierni. Ti mando un grande abbraccio a distanza, poi sarà concreto a breve, caro Paolo Zanardi, per aver dato struttura e scrittura al format Move to Groove di oggi, quando vuoi ovviamente. Sai che ti spoilerizzo la prossima puntata? Dai. Sembra una provocazione volgare, però quanto sposta avere il sedere grosso? Non è una provocazione. Facciamo, anzi, una trasmissione su questo. Facciamo, Willy, una trasmissione, esatto, sui culi grandi, sul fondoschiena. E vai di body shaming. Grazie per l'attenzione. Ciao a tutte, ciao a tutti. A tra poco alle 9:30 con la rassegna stampa.